cerca distrattamente abbandonato. L'occhio sotto cappello ha nascosto, mani in tasca che povera esato. Poco ci scanne stelle che sono asciute. E la luna rossa mi parla di, io la domando se aspetta a me, e mi risponde se io vuoi sapere, che non c'è sta nessuno. E chiamo non mi potevo di, ma tutta gente che parla di, risponde tardi che vuoi sapere, non c'è sta nessuna. Oh, luna rossa, chi mi sarà sincera? Luna rossa, se ne chiuda la tassera senza mi vedere. E dica ancora che aspetta a me, coro balcone stanotte tre, e preghe santa va ma vede, ma non c'è sta nessuna. Sarà sincera, luna rossa, se ne chiuda la tassera senza mi vedere. E dica ancora che aspetta a me, foro balcone stanotte tre, e preghe santa per mi vedere, ma non c'è sta nessuna.